Perché non riesci a comportarti come Olive, Doss? Perché non sai stare retta come Olive, Doss? Perché non puoi parlare con la grazia di Olive, Doss? Perché non ti sforzi, Doss? Gli occhi d'elfo di Valancy persero il loro beffardo scintillio e si fecero pensosi e addolorati. Non si poteva ignorare o disdegnare Olive, era quasi impossibile negare che fosse bella e appariscente e talvolta piuttosto intelligente. La sua bocca poteva essere un tantino generosa, quando rideva poteva mostrare troppo sfacciatamente i bei denti bianchi e regolari, ma c'era poco da fare. Olive giustificava appieno la definizione dello zio Benjamin, una ragazza sorprendente. Sì, Valancy in cuor suo era d'accordo, Olive era sorprendente. Aveva dei corposi capelli bruno dorati, acconciati in modo sofisticato, con quella scintillante fascia che le teneva in ordine i lucidi sbuffi. Aveva grandi e brillanti occhi blu con spesse ciglia setose. Dal vestito spuntavano un volto rosa e un nudo collo color neve. Grandi perle sulle orecchie, la fiamma del diamante bianco-azzurrino sulle lunghe e lisce dita di cera con le rosee unghie appuntite. Braccia marmoree che rilucevano attraverso il verde chiffon e i pizzi. Valancy si sentì improvvisamente grata che le sue braccia scarne fossero avvolte nell'abito di seta marrone. Poi prese a riassumere le attrattive di Olive. Alta, regale, spigliata, tutto il contrario di Valancy, fossette per giunta, nelle guance e nel mento. Una donna con le fossette riesce sempre ad affermarsi, pensò Valancy, in un nuovo spasmo di acredine contro la sorte che le aveva negato anche una sola fossetta. Oliver era più giovane di Valancy di un solo anno, ma un estraneo avrebbe pensato che ci fossero almeno 10 anni di differenza tra loro. Ciò nonostante, nessuno aveva mai temuto che rimanesse zitella. Fin dai primi anni dell'adolescenza, Oliver era stata circondata da una folla di desiderosi corteggiatori, così come il suo specchio era sempre stato attorniato da una gran quantità di cartoline, fotografie, programmi e inviti. A 18 anni, quando aveva conseguito il diploma all'Havergal College, Oliver era stata legata a Will Desmond, avvocato in erba. Will Desmond era morto e Olive lo aveva opportunamente compianto per 2 anni. A 23 anni aveva avuto una movimentata relazione con Donald Jackson, ma lo zio e la zia Wellington disapprovavano e Olive lo aveva doverosamente lasciato. Nessun componente del clan Sterling, per quanto potessero dire gli estranei, aveva insinuato che lei lo avesse fatto, perché lo stesso Donald si stava raffreddando. Ad ogni modo, la terza avventura di Olive aveva incontrato l'approvazione di tutti. Cecil Price era intelligente, bello e uno dei buoni partiti di Port Lawrence. Olive era legata a lui da 3 anni. Si era appena laureato in ingegneria civile e non appena avesse ottenuto un impiego si sarebbero sposati. Il corredo da sposa di Olive traboccava di cose squisite. Olive aveva già confidato a Valancy come sarebbe stato l'abito nuziale, di seta color avorio, drappeggiata con del pizzo, un lungo strascico di satin bianco, foderato di georgette verde pallido, un velo di pizzo Brussels ereditato dalla famiglia. Valancy sapeva inoltre, sebbene Olive non glielo avesse detto, che le damigelle d'onore erano selezionate e che lei non era tra queste. Valancy in un certo modo era sempre stata la confidente di Olive, forse perché tra i parenti era l'unica ragazza che non avrebbe a sua volta annoiato Olive con le proprie confidenze. Olive aveva sempre raccontato a Valancy i dettagli delle sue relazioni, fin dai giorni in cui i ragazzini della scuola avevano l'abitudine di perseguitarla con lettere d'amore. Valancy non poteva trovare conforto nella convinzione che quelle relazioni fossero immaginarie. Olive le aveva realmente avute. Molti uomini avevano perso la testa per lei, oltre ai 3 fortunati. Non so che cosa vedano in me quei poveri idioti, tanto da rendersi doppiamente idioti, Olive era solita dire. Valancy avrebbe voluto aggiungere neppure io, ma sia la verità che la diplomazia glielo impedivano. Lo sapeva perfettamente. Olive Sterling era una di quelle ragazze per le quali gli uomini perdono la testa. Proprio come lei, Valancy era una delle ragazze che nessun uomo guarda mai una seconda volta. Eppure, pensò Valancy, valutandola con un nuovo e spietato giudizio, è come una mattina senza rugiada. Le manca qualcosa. 11. Nel frattempo, la cena, ancora all'inizio, si stava dilungando come da consuetudine Sterling. La stanza era fredda, a dispetto del calendario, e la zia Alberta aveva acceso i camini a gas. Tutti i componenti del clan, a eccezione di Valency, le invidiavano i camini a gas. Dei gloriosi caminetti ardevano in ogni stanza del suo castello blu nelle fredde notti autunnali, ma Valency sarebbe morta congelata piuttosto che commettere il sacrilegio di un camino a gas. Lo zio Herbert propose il suo ardito e perenne scherzo mentre serviva alla zia Wellington la carne fredda. Mary, vuoi un agnellino? La zia Mildred raccontò la solita vecchia storia dell'anello che aveva trovato nel gozzo di un tacchino. Lo zio Benjamin narrò la sua favorita e banale storiella di come avesse inseguito e punito un uomo, adesso famoso per aver rubato delle mele. La cugina di secondo grado Jane descrisse tutte le sue sofferenze con un ascesso. La zia Wellington decantò la forma dei cucchiaini da tè in argento della zia Alberta e si lamentò perché uno dei suoi era andato perduto. Il servizio è rovinato, non potrò più completarlo ed era il regalo nuziale della cara vecchia zia Matilda. La zia Isabel era del parere che le stagioni stessero cambiando e non riusciva a immaginare cosa fosse accaduto alle nostre belle primavere di un tempo. La cugina Georgiana, come al solito, discusse l'ultimo funerale e si chiese ad alta voce chi di noi sarà il prossimo a mancare. La cugina Georgiana non riusciva mai a pronunciare una parola tanto esplicita come morire. Valency pensò che avrebbe potuto dirglielo, ma non lo fece. La cugina Gladys, come di consueto, doveva lagnarsi di qualcosa. I nipoti che erano andati a trovarla avevano distrutto tutti i bocci delle piante che aveva in casa e avevano infastidito i suoi polli finti, strizzandone qualcuno fino a farli morire, mia cara. Che i ragazzi facciano i ragazzi, le ricordò lo zio Herbert con tolleranza. Ma non devono infastidire dei fastidiosi animali, ribatté la cugina Gladys, guardando attorno al tavolo in cerca di approvazione per il proprio umorismo. Tutti sorrisero, ad eccezione di Valency. La cugina Gladys lo tenne bene a mente. Pochi minuti dopo, quando Helen Hamilton divenne l'argomento di conversazione, la cugina Gladys parlò di lei come di una di quelle timide e insignificanti ragazze che non riescono a trovare marito e guardò Valency in modo significativo. Lo zio James pensò che la conversazione stesse alquanto abbassandosi a livello del personale pettegolezzo. Tentò di elevarla iniziando una discussione astratta sulla somma felicità. A ognuno di loro chiese di dichiarare la propria idea di somma felicità. La zia Mildred pensava che la più grande felicità per una donna fosse di essere un'amorevole e amata moglie e madre. La zia Wellington, quella di girare l'Europa. Olive, quella di diventare una grande cantante come Tetrazzini. La cugina Gladys sottolineò tristemente che la sua più grande felicità sarebbe stata quella di essere libera, assolutamente libera dalla neurite. La somma gioia della cugina Georgiana sarebbe stata quella di riavere indietro il caro e compianto fratello Richard. La zia Alberta osservò vagamente che la più grande felicità doveva trovarsi nella poesia della vita e si affrettò a dare alcuni ordini alla propria cameriera per evitare che le chiedessero spiegazioni in merito. Mrs. Frederick disse che la gioia più grande era quella di dedicare la vita a servizio degli altri. E la cugina Stiggs e la zia Isabel si dichiararono d'accordo. La zia Isabel, con aria di risentimento, come se pensasse che Mrs. Frederick le avesse tolto il vento dalle vele nel dirlo prima di lei. Siamo tutti troppo abituati, continuò Mrs. Frederick, determinata a non perdere una tale opportunità, a vivere nell'autocompiacimento, nella mondanità e nel peccato. Tutte le altre donne si sentirono rimproverate per i loro bassi ideali. Lo zio James si convinse che la conversazione fosse stata elevata. La più grande felicità, disse improvvisamente e distintamente Valency, è starnutire quando ne abbiamo voglia. Tutti la fissarono. Nessuno se la sentì di dire qualcosa. Valency stava forse cercando di fare dell'umorismo? Era incredibile. Mrs. Frederick, che con il progredire della cena aveva respirato con maggior agio, giacché Valency era stata quieta, iniziò nuovamente a tremare. Ritenne tuttavia più prudente mantenere il silenzio. Lo zio Benjamin non fu altrettanto prudente. Si precipitò avventatamente laddove Mrs. Frederick temeva di inoltrarsi. Dos, ridacchiò, qual è la differenza tra una fanciulla e una zitella? Una è felice e spensierata e l'altra è triste e pelata, disse Valency. Hai proposto quello scioglilingua almeno 50 volte, per quanto io possa ricordare, zio Ben. Perché non trovi qualche nuovo indovinello se proprio non puoi farne a meno? È un fatale errore ingegnarsi ad essere divertenti senza riuscirvi. Lo zio Benjamin la fissò con aria inebetita. Mai in tutta la sua vita qualcuno si era rivolto a lui, Benjamin Sterling, della Sterling and Frost, a quel modo. E proprio Valency tra tutte le persone. Guardò debolmente attorno al tavolo per vedere cosa ne pensassero gli altri. Tutti avevano un'espressione piuttosto assente. La povera Miss Frederick aveva chiuso gli occhi e le labbra si muovevano in preda al tremito, come se stesse pregando. Forse era così. La situazione era talmente inaudita che nessuno sapeva come affrontarla. Valency continuò a mangiare con calma l'insalata come se niente di insolito fosse accaduto. La zia Alberta, per salvare la propria cena, si addentrò nel resoconto di come un cane l'avesse morsa di recente. Lo zio James, per darle manforte, le chiese dove l'avesse morsa il cane. Appena sotto la chiesa cattolica, disse la zia Alberta. A quel punto Valency rise. Nessun altro rise. Cosa c'era da ridere? È una parte vitale? Chiese Valency. Che cosa intendi? Disse l'attonita zia Alberta, e Mrs. Frederick fu quasi portata a pensare di avere in tutti quegli anni servito Dio per niente. La zia Isabel decise che stava a lei sopprimere Valency. Doss, sei orribilmente magra, disse. Sei tutt'ossa. Non provi mai a mettere su un po' di carne? No. Valency non aveva intenzione né di ottenere né di accordare pietà, ma posso dirti dove trovare un centro estetico a Port Lawrence per farti ridurre il numero dei menti. Valency! La protesta sfuggì a Mrs. Frederick. Il suo tono doveva essere solenne e maestoso, come al solito, ma ne uscì piuttosto un implorante gemito, inoltre non disse dos. È febbricitante, spiegò la cugina Stickles allo zio Benjamin in un agonizzante sussurro. Sono diversi giorni che pensiamo abbia la febbre. È ammattita, per conto mio, borbottò lo zio Benjamin. In caso contrario dovrebbe essere sculacciata. Sì, sculacciata. Non puoi sculacciarla, la cugina Stickles era incredibilmente agitata. Ha 29 anni. Così c'è almeno quel vantaggio ad avere 29 anni, disse Valency, le cui orecchie avevano captato quell'osservazione. Dos, quando sarò morto potrai dire quello che vuoi. Finché sarò in vita, chiedo di essere trattato con rispetto. Oh, ma sai che siamo tutti morti, affermò Valency. Tutto il clan degli Sterling. Alcuni di noi sono sepolti, altri non lo sono. Per il momento, questa è l'unica differenza. Dos! Disse lo zio Benjamin nella convinzione che potesse atterrire Valency. Ricordi quando rubasti la marmellata di lamponi? Valency si fece scarlatta nel tentativo di sopprimere una risata, non per la vergogna. Era certa che lo zio Benjamin avrebbe ritirato fuori quella marmellata in qualche modo. Certo che lo ricordo, disse lei. Era una buona confettura. Mi è sempre dispiaciuto di non avere avuto il tempo di mangiarne di più prima che tu mi sorprendessi. Oh, guardate il profilo della zia Isabel sulla parete. Avete mai visto qualcosa di tanto buffo? Tutti guardarono, inclusa la zia Isabel, che naturalmente rovinò l'effetto. Ma lo zio Herbert disse con gentilezza: Io non mangerei altro se fossi in te, Doss. Non è che mi dispiaccia, ma non credi sarebbe meglio per te? Il tuo stomaco sembra un po' disturbato. Non preoccuparti per il mio stomaco, vecchio mio, rispose Valency. È a posto. Ho intenzione di continuare a mangiare, così raro che io possa approfittare di un pasto soddisfacente. Era la prima volta che qualcuno era stato chiamato vecchio mio a Deerwood. Gli Sterling pensarono che Valency avesse inventato la frase e da quel momento iniziarono a temerla. C'era qualcosa di così sconcertante in quell'espressione. Ma per la povera Mrs. Frederick il riferimento al pasto soddisfacente fu la peggior cosa che Valency avesse detto fino a quel momento. Valency era sempre stata una delusione per lei. Adesso era una disgrazia. Pensò che avrebbe dovuto alzarsi e allontanarsi dalla tavola. Tuttavia non osò lasciare Valency lì da sola. La cameriera della zia Albert entrò per togliere i piatti dell'insalata e per portare il dessert. Fu un piacevole diversivo. Tutti si illuminarono, determinati a ignorare Valency e a parlare come se lei non fosse presente. Lo zio Wellington menzionò Barney Snaith e alla fine, rifletté Valency, a ogni ritrovo degli Sterling qualcuno faceva il nome di Barney Snaith. Qualunque cosa gli fosse, era un individuo che non poteva essere ignorato. Si rassegnò ad ascoltare. Quell'argomento suscitava in lei un sottile fascino, sebbene non ne avesse ancora preso coscienza. Riusciva a sentire il battito delle pulsazioni fino alle punte dei piedi. Naturalmente furono spietati con lui. Nessuno aveva mai una buona parola da dire a favore di Barney Snaith. Furono intessute tutte le vecchie folli storie, le leggende sull'impiegato di banca inadempiente, sull'infedele e sull'assassino datosi alla macchia, furono tirate fuori dall'immondizia. Lo zio Wellington era molto indignato per il fatto che a una simile creatura fosse permesso anche soltanto di condurre la propria esistenza nel vicinato di Deerwood. Non sapeva cosa avesse in mente la polizia di Port Lawrence. Una di quelle notti tutti sarebbero stati uccisi nel loro letto. Era una vergogna che venisse lasciato a piede libero dopo tutto ciò che aveva fatto. Che cosa ha fatto? Chiese improvvisamente Valency. Lo zio Wellington la fissò, dimenticando che doveva essere ignorata. Fatto, fatto, lui ha fatto di tutto. Che cosa ha fatto? Ripeté Valency inesorabilmente. Che cosa ti risulta abbia fatto? Sei sempre a criticarlo e che cosa mai è stato dimostrato contro di lui finora? Non mi metto a discutere con le donne, disse lo zio Wellington, e non ho bisogno di prove. Quando un uomo si nasconde lassù su un'isola nel Muskoka anno dopo anno e nessuno riesce a scoprire da dove venga o come viva, oppure che cosa ci faccia laggiù, è una prova sufficiente. Trova un mistero e troverai un crimine. La sola idea di un uomo che si chiama Snaith, affermò Sara, la cugina di secondo grado, già il nome è sufficiente a condannarlo. Non vorrei incontrarlo in una strada buia, rabbrividì la cugina Georgiana. Beh, che cosa pensi ti farebbe? Chiese Valency. Mi ucciderebbe, disse solennemente la cugina Georgiana. Per puro divertimento? Suggerì Valency. Esattamente, disse fiduciosa la cugina Georgiana. Quando c'è così tanto fumo deve esserci anche del fuoco. Temetti che potesse essere un criminale quando giunse qui per la prima volta. Sentii che aveva qualcosa da nascondere. Difficilmente le mie intuizioni risultano errate. Criminale, certo che è un criminale, disse lo zio Wellington. Nessuno ne dubita, tenendo lo sguardo fisso su Valency. Beh, dicono abbia scontato una pena per appropriazione indebita in un penitenziario. Io non ho alcun dubbio a riguardo. E dicono che faccia parte della banda che sta mettendo a segno tutti quei furti nelle banche qui vicino. Chi lo dice? Chiese Valency. Lo zio Wellington corrugò verso di lei la brutta fronte. Che cosa era accaduto a quella dannata ragazza? Ignorò la domanda. Ha proprio l'aspetto dell'avanzo di galera, esordì lo zio Benjamin. L'ho notato la prima volta che l'ho visto. Un individuo per mano della natura segnato, prescelto ed eletto per compiere un atto vergognoso. Shakespeare, Re Giovanni, atto quarto, scena 2. Recitò lo zio James. Sembrò incredibilmente compiaciuto per essere finalmente riuscito a fare quella citazione. Aspettava quell'occasione da tutta la vita. Una delle sue sopracciglia è arcuata e l'altra è triangolare, disse Valency. E questo è il motivo per cui lo ritieni così malvagio? Lo zio James alzò le sue sopracciglia. Generalmente, quando lo zio James alzava le sopracciglia, il mondo si fermava. Questa volta continuò a funzionare. Come mai tu conosci così bene le sue sopracciglia, Doss? Chiese Olive con un po' di malizia. Un tale commento avrebbe mandato Valency in completa confusione qualche settimana prima e Olive lo sapeva. Sì, come mai? Domandò la zia Wellington. L'ho incontrato due volte. E l'ho osservato con attenzione, disse Valency con compostezza. Ho pensato che il suo volto fosse il più interessante che avessi mai visto. Non c'è dubbio che ci sia qualcosa di equivoco nella vita passata di quella creatura, affermò Olive, iniziando a pensare di essere decisamente esclusa dalla conversazione, che era straordinariamente incentrata su Valency. Sapete però che difficilmente può essere colpevole di tutto quanto gli viene attribuito. Valency provò irritazione nei confronti di Olive. Perché doveva dire la propria, seppure in difesa di Barney Snaith? Che cosa aveva a che fare con lui? E del resto la stessa cosa valeva per Valency, ma Valency non si pose quella domanda. Dicono che tenga dozzine di gatti in quella capanna, nella landa desolata sul Mistawis, disse la cugina di secondo grado Sarah Taylor nel tentativo di non apparire completamente ignorante a riguardo. Gatti? Quel plurale suonò piuttosto allettante per Valency. Si figurò un'isola nel Muskoka infestata dai gatti. Già, questo dimostra che c'è qualcosa di sbagliato in lui, affermò la zia Isabel. Le persone che non amano i gatti, disse Valency, iniziando a mangiare con gusto il dessert, sembrano sempre avere la convinzione che vi sia qualche particolare virtù nel non amarli. Quell'individuo non ha amici, a eccezione di Roaring Abel, sentenziò lo zio Wellington, e se Roaring Abel lo avesse tenuto alla larga, così come hanno fatto tutti gli altri, sarebbe stato meglio per alcuni membri della sua famiglia. La conclusione, piuttosto zoppicante dello zio Wellington fu la conseguenza di uno sguardo da parte della zia Wellington, con il quale ella desiderava ricordargli ciò che aveva pressoché dimenticato, che alla tavola erano presenti alcune ragazze. Oh, se intendi, disse Valency con ardore, che Bernice Nath è il padre del figlio di Cecil Gay, sei in errore. È una perfida bugia. A dispetto della propria indignazione, Valency fu enormemente divertita dall'espressione presente sui volti di coloro che partecipavano al banchetto. Non aveva più visto niente del genere dal giorno in cui 17 anni prima, in occasione di una festa del ditale, un ritrovo femminile durante il quale, proseguendo ognuna nei propri lavori di cucito, le donne si facevano compagnia chiacchierando, e dicevamo in occasione di una festa del ditale, organizzata dalla cugina Gladys, avevano scoperto che lei aveva preso qualcosa in testa mentre era a scuola. Pidocchi sulla sua testa, Valency non ne poteva più di eufemismi. La povera Mrs. Frederick quasi collassò. Credeva o fingeva di credere che Valency ancora pensasse che i bambini si trovavano nelle distese di Prezzemolo. Silenzio! Silenzio! La implorò la cugina Stickles. Non ho intenzione di stare in silenzio, disse Valency in modo perverso. Sono stata zittita per tutta la vita. Mi metterò a urlare se mi va. Non inducetemi a farlo e smettetela di raccontare sciocchezze su Barney Snaith. Valency non comprendeva appieno la propria indignazione, perché mai crimini e misfatti attribuiti a Barney Snaith avevano importanza per lei. E perché, soprattutto, le sembrava intollerabile che fosse stato l'ipocrita innamorato della povera, patetica e piccola Cecily Gay. Poiché in effetti ciò le risultava insopportabile. Non le importava quando lo definivano un ladro, un falsario e un avanzo di galera, ma non poteva tollerare il pensiero che avesse amato e rovinato Cecily Gay. Rammentò il suo volto in occasione dei due casuali incontri, il suo sorriso storto, enigmatico e accattivante, la luce che emanava, le sottili e delicate labbra quasi ascetiche, il generale aspetto di franca temerarietà. Un uomo con un tale sorriso e con labbra simili poteva avere ucciso o rubato, ma non poteva aver tradito. D'un tratto prese a odiare chiunque lo affermasse o lo credesse. Quando ero una giovane ragazza non pensavo e non parlavo mai di questioni del genere, Doss, disse la zia Wellington con veemenza. Ma io non sono una giovane ragazza, controbatté Valency illesa. Non me lo ripetete forse sempre? E siete tutti dei maligni e assurdi pettegoli. Non potete lasciare in pace la povera Cissy Gay. Sta morendo. Qualunque cosa abbia fatto, oddio, il diavolo l'hanno punita abbastanza. Non c'è bisogno che anche voi ci mettiate il vostro zampino. Quanto a Barney Snaith, l'unico crimine che abbia commesso è quello di vivere per proprio conto e farsi gli affari suoi. A quanto pare riesce a cavarsela senza di voi, e questo naturalmente è imperdonabile per la vostra piccola snobocrazia. Valency coniò quest'ultima parola di getto e la sentì come un'ispirazione. Erano esattamente così, e nessuno di loro poteva permettersi il lusso di redimere qualcun altro. Valency! Il tuo povero padre si rivolterebbe nella tomba se potesse ascoltarti, disse Mrs. Frederick. Sono pronta a scommettere che gli piacerebbe come diversivo, affermò sfacciatamente Valency. Doss, disse lo zio James duramente, i 10 comandamenti sono ancora piuttosto attuali, soprattutto il quinto, lo hai dimenticato? No, disse Valency, ma pensavo che voi lo aveste fatto, soprattutto il nono. Hai mai pensato, zio James, come sarebbe piatta la vita senza i 10 comandamenti? È soltanto quando le cose sono proibite che divengono affascinanti. Ma quell'eccitazione Era stata troppo per lei, sapeva per via di alcuni inequivocabili avvertimenti che stava per presentarsi uno di quei dolorosi attacchi. Non doveva sorprenderla in quel luogo. Si alzò dalla sedia. Adesso torno a casa. Sono venuta soltanto per la cena. Era molto buona, zia Alberta, anche se il condimento dell'insalata non è abbastanza salato e sarebbe migliore con un pizzico di peperoncino. Nessuno degli sbalorditi invitati alle nozze d'argento riuscì a dire qualcosa prima che nel crepuscolo il cancello del giardino si fosse rumorosamente chiuso dietro Valency Stirling. Poi, è febbricitante! L'ho detto subito che era febbricitante! Gemette la cugina Stickles. Lo zio Benjamin si tormentò ferocemente la grassoccia mano sinistra con quella destra. È matta! Vi dico che è diventata matta! Grugnì con rabbia. Non c'è altro da dire, completamente matta! Oh, Benjamin, disse la cugina Georgiana in modo carezzevole, non condannarla troppo avventatamente. Dobbiamo ricordare quello che afferma il nostro caro vecchio Shakespeare. La carità non sospetta il male. Carità? Sciocchezze, sbuffò lo zio Benjamin. In tutta la mia vita non ho mai sentito una giovane donna parlare di quella roba come ha appena fatto lei. Chiacchierare di cose il cui pensiero dovrebbe riempirla di vergogna e addirittura menzionarle, bestemmiare, insultarci. Quello che le serve è una generosa dose di sculacciate e vorrei essere io a dargliele. Lo zio Benjamin mandò giù la metà di una tazza di caffè bollente. Ne pensate che gli orecchioni possano dare questa sintomatologia? Frignò la cugina Stickles. Ieri ho aperto un ombrello in casa, tirò su con il naso la cugina Georgiana. Sapevo che era presagio di qualche disgrazia. Avete provato a vedere se ha la febbre? Chiese la cugina Mildred. Non ha permesso ad Amelia di metterle il termometro sotto la lingua, gemette la cugina Stickles. Mrs. Frederick era apertamente in lacrime. Tutte le sue difese erano crollate. Devo confessarvi, singhiozzò, che sono più di 2 settimane che Valency si comporta in modo molto strano. Non è assolutamente in sé. Christine può confermarvelo. Ho sperato invano che fosse per via di una di quelle sue infreddature che stava per manifestarsi, ma deve essere qualcosa di peggiore. Tutto ciò mi sta provocando un nuovo accesso di neurite, esclamò la cugina Gladys portandosi una mano alla testa. Non piangere, Amelia, disse Herbert con gentilezza, tirandosi nervosamente i capelli irti. Odiava gli scompigli di famiglia, molto sconsiderato da parte di Doss iniziarne uno alle sue nozze d'argento. Chi poteva supporlo? Dovrai portarla da un dottore. Potrebbe trattarsi soltanto di un, beh, di confusione mentale. Oggigiorno ci sono cose del genere, non è vero? Io ieri le ho suggerito di consultare un medico, gemette Mrs. Frederick, e ha detto che non sarebbe andata da un dottore. Non lo avrebbe fatto. Oh, di sicuro ho avuto abbastanza problemi. E non prenderà l'amaro della Redfern, affermò la cugina Stickles. E nient'altro, disse Mrs. Frederick. Ed è determinata ad andare alla chiesa presbiteriana, aggiunse la cugina Stickles, non alludendo comunque che sia detto a suo credito all'episodio del corrimano. Questo prova che è matta, grugnì lo zio Benjamin. Oggi ho notato che aveva qualcosa di strano nell'istante in cui è entrata. L'ho notato prima di oggi. Lo zio Benjamin stava pensando a Mirage. Tutto ciò che ha detto oggi dimostra uno squilibrio mentale. Quella domanda era una parte vitale? Aveva forse senso un'osservazione del genere? Assolutamente nessuno. Negli Sterling non c'è mai stato niente del genere. Deve averle ereditato dagli Wandsberg. La povera Mrs. Frederick era troppo oppressa per sentirsi indignata. Non ho mai sentito che vi fosse qualcosa del genere negli Wandsberg, singhiozzò. Tuo padre era abbastanza strano, disse lo zio Benjamin. Il povero papà era particolare, ammise Mrs. Frederick tra le lacrime, ma la sua mente fu sempre lucida. Per tutta la vita ha parlato esattamente come ha fatto oggi Valency, controbatté lo zio Benjamin, e pensava di essere la reincarnazione del suo trisavolo. L'ho sentito io mentre lo affermava. Non dirmi che un uomo che aveva una tale convinzione fosse nel pieno delle sue facoltà mentali. Su, Amelia, smettila di tirare su con il naso. Di sicuro Doss ha dato un terribile spettacolo di sé quest'oggi, ma non ne è responsabile. Le vecchie zitelle hanno l'abitudine di partire per la tangente a quel modo. Se si fosse sposata quando avrebbe dovuto, non sarebbe diventata così. Nessuno voleva sposarla, disse Mrs. Frederick, sentendo che in qualche maniera lo zio Benjamin la stava biasimando. Bene, per fortuna qui non ci sono estranei, proruppe lo zio Benjamin. Possiamo ancora tenerlo in famiglia. Domani la porterò dal dottor Marsh. Io so come trattare la gente cocciuta. Non sarebbe la soluzione migliore, James? Oh, certamente, dobbiamo avere un consiglio medico, convenne lo zio James. Bene, è deciso. Nel frattempo, Amelia, comportati come se niente fosse accaduto e tienila d'occhio. Non lasciarla da sola, soprattutto non lasciare che dorma da sola. Ci furono nuovi gemiti da parte di Mrs. Frederick. Non posso evitarlo. La notte scorsa le ho suggerito di tenere Christine con sé e si è categoricamente rifiutata. E ha chiuso la porta a chiave. Oh, non sapete come sia cambiata. Non lavora, ovvero si rifiuta di cucire, sbriga le solite faccende, naturalmente, ma ieri mattina non ha spazzato la sala, sebbene lo facciamo sempre di giovedì. Ha detto che avrebbe aspettato che fosse sporca. Preferiresti spazzare una stanza sporca che una pulita? Le ho chiesto. Lei ha detto naturalmente, così vedrai il risultato del mio lavoro. Pensate un po'. Lo zio Benjamin ci pensò su. Il recipiente di potpourri. La cugina Stiglitz pronunciò queste parole come se stesse compitando. È scomparso dalla sua camera. Ho trovato i pezzi nella proprietà accanto alla nostra. Non ci dirà che cosa gli è capitato. Non me lo sarei mai sognato da parte di Doss, disse lo zio Herbert. È sempre sembrata una ragazza talmente quieta e sensibile, un po' indietro, ma sensibile. L'unica cosa di cui si può essere certi in questo mondo è la tavola pitagorica, disse lo zio James, sentendosi più intelligente del solito. Bene, tiriamoci un po' su, suggerì lo zio Benjamin. Perché le ragazze di un corpo di ballo sono come dei begli allevatori di bestiame? Perché? Domandò la cugina Stiglitz, dato che doveva essere chiesto e Valency non era presente per farlo. Perché devono esibire delle vacche, ridacchiò lo zio Benjamin, giocando sul fatto che calves in inglese significa vacche ma anche polpacci. La cugina Stiglitz trovò che lo zio Benjamin era un po' indelicato e di fronte a Olive per giunta. Del resto, però, era un uomo. Lo zio Herbert considerò la situazione alquanto piatta ora che Valency se n'era andata. 12. Valency si affrettò verso casa attraverso il pallido e azzurro crepuscolo. Forse camminò troppo speditamente. L'attacco che la salì quando finalmente ebbe raggiunto il rifugio della propria camera fu il peggiore che avesse mai avuto. Fu davvero tremendo. Avrebbe potuto morire durante uno di quegli attacchi. Sarebbe stato terribile morire con una tale sofferenza. Forse era questa la morte? Valency si sentì pietosamente sola. Quando riuscì a pensare, si chiese come sarebbe stato avere qualcuno lì vicino che potesse simpatizzare con lei, qualcuno a cui realmente importasse, che le tenesse strettamente la mano, se non altro qualcuno che le dicesse semplicemente: sì, lo so, è terribile, sii coraggiosa, presto starai meglio. Non qualcuno che fosse soltanto puntiglioso e allarmato, non sua madre o la cugina Stiglitz, perché nella sua mente il pensiero andò a Barney Snaith. Perché nel bel mezzo di quella spaventosa solitudine piena di dolore sentì improvvisamente che lui sarebbe stato comprensivo, dispiaciuto nei confronti di chiunque stesse soffrendo? Perché le apparve come un amico di vecchia data che ben conosceva? Era perché lo aveva difeso, perché aveva sfidato la propria famiglia per lui? Oh, si sentì così male all'inizio che non poté neppure prendere una dose della prescrizione del dottor Trent. Alla fine però vi riuscì e presto provò sollievo. Il dolore l'abbandonò e lei giacque sul proprio letto, distrutta, esausta, madida di un freddo sudore. Oh, era stato orribile. Non poteva sopportare molti altri attacchi del genere. Se la morte avesse potuto essere istantanea e indolore, morire non sarebbe stato tanto terribile, ma andarsene con quella sofferenza. Improvvisamente si ritrovò a ridere. Quella cena era stata divertente ed era stato tutto così facile. Aveva semplicemente detto tutto quello che aveva sempre pensato. Le loro facce. Lo zio Benjamin, povero sbalordito zio Benjamin. Valency si sentì quasi certa che avrebbe redatto un nuovo testamento quella notte stessa. Olive avrebbe ottenuto la parte del suo corposo tesoro prima destinata a Valency. Olive aveva sempre preso la parte di Valency su qualsiasi cosa, da non dimenticare il monticello di polvere. Prendersi gioco del suo clan, come aveva sempre desiderato, era la medesima e la massima soddisfazione che potesse ottenere dalla vita adesso. Ma trovò tutto ciò piuttosto penoso. Non poteva forse avere pietà di se stessa quando nessun altro ne aveva. Valency si alzò e andò alla finestra. Il bel vento umido che soffiava tra i boschetti di alberi selvatici dalle giovani foglie le sfiorò il volto come la carezza di un saggio, tenero, vecchio amico. Alla sua sinistra, i pioppi nel giardino di Mrs. Threadgold. Valency riusciva a scorgerli tra la stalla e il vecchio negozio di carrozze. Si stagliavano con le loro silhouette color porpora scuro contro il cielo terso, e una palpitante stella biancolatte si ergeva sopra uno di loro come una perla viva sopra un lago verde argentato. In lontananza, oltre la stazione, si estendevano, attorno al lago Mistawis, gli indistinti boschetti ammantati di viola. Una bianca e sottile bruma aleggiava sopra di essi e poco più in alto si ergeva una fievole giovane falce lunare. Valency la guardò da sopra la propria esile spalla sinistra. «Vorrei», disse capricciosamente, «poter avere il mio piccolo monticello di polvere prima di morire».